Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È in libreria l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, Il meccanico Landru, pubblicato da Garzanti. L'autore di Olive comprese, Il segreto di Ortelia, La modista, Almeno il cappello, ci porta ancora una volta nella sua Bellano, piccolo paese sul lago di Como, per una storia ambientata negli anni 30. I protagonisti sono alcuni meccanici che arrivano in paese a creare scompiglio, come ci racconta lo stesso Vitali. Meccanici sono meccanici di macchine tessili. Un lavoro realmente esistito negli anni in cui i cotonifici proliferavano, ed erano meccanici, diciamo, nomadi che giravano per le varie sedi dei cotonifici a sistemare per la manutenzione delle macchine. Nel caso specifico del meccanico Landru, giungono a Bellano per montare dei telai elettrici, che sono la grossa novità, diciamo, che infiamma un po' le chiacchiere del paese. E creano scompiglio arrivando a Bellano. Creano uno scompiglio loro personalmente, perché già la prima sera praticamente animano una rissa nel corso di una festa danzante, così come creano scompiglio anche questi telai elettrici, perché ci si rende conto che con il loro arrivo si ridurranno la manodopera, vuol dire tanti posti di lavoro in meno, e quindi c'è anche questo versante narrativo su cui corre la storia. Insomma, c'era anche il cambiamento epocale proprio del modo in cui si lavorava. Sì, una piccola, diciamo, rivoluzione industriale, ed è una delle tante ragioni che mi ha fatto riscrivere questa storia, perché una cosa io tengo a dire: la storia è vecchia. Era stata già pubblicata nel 92. Nel 92, esattamente. Rileggendolo, anche questo motivo, diciamo, legato anche alla nostra crisi attuale del lavoro, mi ha fatto ripensare che forse valesse la pena rimetterci mano in maniera pesante, in maniera importante, come di fatto è stato. Quindi ti sei fatto influenzare dalla realtà per riscriverlo? Sì, questa riflessione sull'attualità è stata, come dicevo, appunto uno dei tanti motivi che mi hanno portato a riscrivere. Ho trovato questa coincidenza di cui sinceramente non ricordavo, se non l'avessi riletto non me ne sarei accorto, ma rileggendolo ho proprio verificato questo dato estremamente aderente alla realtà attuale, e allora era necessario, era importante, fondamentale, cioè rivedere la storia in quest'ottica. Ma rispetto a quanto avevi scritto nel 92, il romanzo è fedele o proprio c'è uno stravolgimento? No, diciamo che è abbastanza fedele per quanto riguarda i protagonisti. Non tutti i protagonisti però hanno lo stesso destino di quella prima versione. Segnatamente il segretario del partito nazionale fascista Aurelio Pasta ha un destino molto diverso rispetto a quello della prima versione, e così anche altri comprimari di questa storia. Insomma, chi ha letto la prima versione può leggere anche questa seconda trovando qualcosa di nuovo. Trovando molto molto di nuovo, devo dire, non resterà deluso, credo. Fra i meccanici ce n'è uno che poi dà il nome al libro, che è il meccanico Landru. Chi è? Landru, devo dire che è il vero protagonista, come recita il titolo della storia di questo romanzo, diciamo, di questo racconto. È il capo di questa piccola banda di sei meccanici che giungono a Bellano, ed è l'unico che si fermerà in paese, nonostante sia licenziato insieme agli altri, giudicando il paese un luogo dove c'è modo di far bene sia con le donne sia, diciamo, con delle piccole truffe di cui è assolutamente protagonista. E devo dire che Bellano diventerà la sua dimora definitiva. E infatti nella copertina del libro si dice, a proposito del meccanico Landru, uno straniero dal nome bizzarro e con un passato misterioso, ma affascinante come un gaucho, porta lo scompiglio nella placida Bellano. Insomma, porta veramente scompiglio in questo paesino. Porta scompiglio perché, come diceva lei, è anche un uomo affascinante. Ha il fascino poi dello straniero, che è una cosa, cioè in un paese, in un piccolo posto, è sempre una cosa estremamente importante. L'uomo che arriva da fuori, la novità, lui, e poi è bello di suo, è anche un discreto affabulatore, quindi in grado, diciamo, di intortare le persone alla sua maniera, diciamo, e quindi crea un discreto numero di guai, e che pagherà poi dopo con un saldo finale abbastanza pesante. Sappiamo che il marchio di fabbrica di Andrea Vitali è naturalmente ambientare romanzi a Bellano e possibilmente negli anni 20 o 30. Insomma, non si va via da questo schema, da questo format vincente, ovviamente, risultati. Devo dire che si va via, cioè non tanto dal luogo geografico, da Bellano, da quel pezzo di lago che resta comunque, diciamo, il protagonista ideale e seriale di tutte le mie storie, ma prossimamente ho tentato una storia ambientata addirittura nel 1843, quindi in epoca pre-unitaria. Questo salto epocale. Questa è una notizia? Beh, non lo so, giudichi lei, non lo so, secondo me sì, per me sì, è stata una bella prova, anche perché mi sono confrontato con un'epoca che non conoscevo assolutamente bene, come credo di conoscere l'epoca degli anni 20, 30 e 40, e con delle sorprese, con un divertimento, diciamo, analogo a quello che mi hanno dato le storie scritte sino ad ora. Ecco, che divertimento, che gusto ha nel raccontare le storie di questo piccolo paesino di Bellano, sappiamo il suo paese, e soprattutto ambientato sempre in quel periodo. Perché ha scelto quel periodo? Ma, la scelta di quel periodo nasce da... ci sono svariati motivi. Innanzitutto perché quel periodo, soprattutto gli anni 30, secondo me è stato un periodo da operetta per la nostra, per il nostro paese. Cioè un periodo veramente abbastanza ridicolo, quando non grottesco. E quindi su questo fondale dava un spettacolo. Le mie storie le ho sempre viste, viste bene. C'è poi anche un motivo più importante, cioè quello che in quegli anni, fino a gli anni 60-70, l'ambiente del paese era veramente un micromondo, un microcosmo, quasi autarchico, quasi autosufficiente, cosa che non è più assolutamente adesso. E quindi all'interno di questo piccolo mondo c'era tutto ciò che era necessario e sufficiente per vivere e per divertirsi. E quindi anche questa immagine fantastica, questa proiezione che ho sempre fatto nei confronti di quegli anni, mi aiuta molto proprio nel compilare, nel lavoro di scrittura. Ma le storie di Bellano ambientate in questo microcosmo possono essere trasferite a qualsiasi parte d'Italia? Ma io penso assolutamente di sì, perché ecco, Bellano non fa eccezione rispetto a tantissimi altri piccoli paesi italiani. Quindi cambierà il nome, cambierà il dialetto, cambieranno le abitudini alimentari, ma voglio dire, la sostanza umana resta sempre la stessa. Sappiamo che Andrea Vitali trae spunto spesso dalle storie che sente proprio dai suoi concittadini. In questo caso, nel caso del meccanico Landru, c'è qualche storia in particolare che l'ha ispirata? Sì, di questa storia sono debitore a una a mia vecchia zia, che ormai non è più, che però ha passato la vita lavorando in una filanda, cioè quindi in un cotonificio, e fu lei appunto a raccontarmi moltissimi anni fa ormai la storia di questo meccanico realmente esistito che aveva creato qualche turbolenza proprio nel paese e che era appunto stato soprannominato Landru, proprio perché in quegli anni era ancora vivace il ricordo del Landru più famoso, l'assassino, il massacratore di donne francese. Andrea Vitali, scrittore, che abitudini o che vizi ha? Fumare. Fumare, se posso dire. Che detto dirlo da un medico, insomma, non è il no, massimo ma io, della vita. Quale medico, do degli ottimi consigli, non però fumare. Però non li pratica. No, esattamente, il buon esempio è tutta un'altra cosa. Quindi fumare, poi altri vizi particolari non credo di averne. Ho il vizio di leggere, ecco, quello sì, di essere un lettore accanito di un po' di tutto. Ecco, a proposito di letture, che cosa legge in particolare? C'è qualcosa che ha voglia di consigliare ai nostri ascoltatori? Ma io sto, per questioni diciamo quasi professionali, sto facendo una profonda rilettura di tutto Dürrenmatt in questo periodo, romanzi e soprattutto il teatro. Devo dire che, pur avendolo già letto un sacco di volte, è un autore che offre sempre delle grandissime sorprese, quindi è un autore che mi sento di consigliare non solo i suoi romanzi straordinari definiti gialli, che poi sono romanzi tout court, ma anche e soprattutto il teatro, che è veramente grandioso. Una curiosità, da quando, insomma, lei ha un grandissimo successo di vendite in Italia, da quando ha questo successo, i suoi pazienti come la vedono? Pensano che, insomma, questo successo possa essere positivo anche nel suo lavoro di medico? Magari dicono, se ha così successo non è un bravo medico. Non lo so, cioè, nella maggior parte dei casi se ne fregano, cioè, nel senso che i miei rapporti con loro e i loro con me non sono c'è minimamente... commistione fra no, le non due c'è cose. Assolutamente commistione, anche perché tendo a tenere le due cose abbastanza distinte. Poi c'è una piccola fetta invece di lo zoccolo duro dei miei pazienti fan, che sono quelli che spesso e volentieri mi raccontano degli aneddoti, sperando, augurandosi che da questi possa uscire un racconto, addirittura un romanzo. E questo era Andrea Vitali, autore di Il meccanico Landru. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Un saluto da Alessandra Tedesco.